ok, ok, ehi, ehi. È mezzanotte, sono già uno strage, ok, io sono sfato. Stasera giuro che occhiavo matta. E sto vaculo dove c'è figa, c'è sempre un babbo. Ti perde e poi mi chiamano zar. Sì, sta marro, e poi sto clan mi fa schifo. Sto, tanto qui non ci fa più entrare, è un fisso. Non ballo, mi punto la cubista e lesbica. Minchia, chissà che sballo mettersi la pecora. E cicca un randa, sti sbanda, ti manda fora. Più della bamba, sta spanna, la senti in gola. Vuoi che ti spieghi qualcosa, e poi ne vuoi ancora? Cavalla golosa, sì. Tu fossi bella e con la grazia di una dea. Un'altra marra che si balla Dragon Stea. Sappi che se cambi idea c'ho la marea. Mio nonno diceva che in guerra ogni buco è trincea. Prima sta stronza non mi caga, poi mi sorride con lo sguardo sexy tipico da depravata. E vai Dino che è andata, è fata. Poi arriva un tipo, oh, è la mia ragazza, hai rotto i coglioni. Oh, ma che cazzo vuoi? Ma chi è sto scemo? Ma vedi andare, ma va. Un po' di minchia. Dai, non rovinarti la serata. Vedi, per noi è come in India, no. La vacca è sacra. Oh raga, esco un momento, non so via molto. Uno ha problemi, vado, glieli risolvo e torno. Sono roots, alcolisti, marci, molesti. Randaz, più cazzo t'aspetti. Bastardi, più pazzi, più grezzi. Sì, evitare i soggetti. Sono roots, alcolisti, marci, molesti. Randaz, più cazzo t'aspetti. Bastardi, più pazzi, più grezzi. Sì, pessimi elementi. Noi, pessimi elementi. Voi, pessimi elementi. Noi, pessimi elementi, voi, pessimi elementi. La tua balza, la mia voglia di cavalla. Che passa? Passa che stanotte me la passo giù in stalla. Notte bianca con i randa giù da gianca. Fino a quando il deoro d'ora di ganja, man. È inutile che fai il gasta. È la tua tipa che se ne va in giro e si vanta del suo tanga. Ehi, tienitela stretta, mi cerca. Sono strafatto e a una certa si è occupata. Non mi interessa, ma pensa, mi tocca fare a botte per sta cessa. Che a guardarla bene mi sa che è messa piena di messa. Questa, per fartela un po' grezza, amala. E se ti piace sangue facci anche lecca lecca. E con lo stronzo in botta, con la ballotta mi circonda. Ascolta, smolla, è la tua donna che non si scolla. Gola secca, bastoni in bocca, fatela con. Che mi tocca spaccare teste per colpa di una stronza. Forza, che le suono più di mozza. Zama, non mi importa. Zama, c'ho la scorza. Zama, sotto a chi tocca. Zama, per me non è la prima volta. Zama, Zama. Sono roots, alcolisti, marci, molesti. Randaz, più cazzo t'aspetti. Bastardi, più pazzi, più grezzi. Sì, evitare i soggetti. Sono roots, alcolisti, marci, molesti. Randaz, più cazzo t'aspetti. Bastardi, più pazzi, più grezzi. Sì, pessimi elementi. Noi, pessimi elementi. Voi, pessimi elementi. Noi, pessimi elementi. Voi, pessimi elementi.